A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Beni tolti alle mafie e a volte dimenticati nei polverosi archivi della giustizia o nei complessi meccanismi della pubblica amministrazione. Aziende tolte ai boss ma poi sparite anche dal mercato insieme ai posti di lavoro. Terreni espropriati a mani sporche ma talvolta distrutti da fiamme dolose che non vogliono la coltivazione di quel grano, quell'olio o quel vino, simboli della restituzione alla società civile di quanto la mafia si era presa. A 30 anni esatti dall'introduzione della legge Rognoni-La Torre, il 13 settembre dell'82, la legge che confisca ai boss i loro beni, se tante sono le storie di rivincite, troppe ancora sono quelle di sconfitte, a cominciare da quelle delle aziende, e da qui partiamo per questa puntata di A ciascuno il suo. Delle 1603 aziende confiscate in tutta Italia, se solo 305 sono quelle rimaste nella gestione dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, al 2 luglio erano appena 35 quelle attive sul mercato. Leggiamo in un documento della stessa agenzia istituita col precedente governo. Capita talvolta così che anche se tolte ai clan, le aziende rischiano poi di morire per mano di una giustizia troppo lenta o una burocrazia troppo faticosa. Uno scenario inaccettabile, soprattutto in tempi di crisi, quando neanche un'occasione di lavoro può andare perduta. Così, 30 anni dopo l'introduzione di una legge, una delle più efficaci nella lotta alle mafie, è questa la principale emergenza, come riconosce Don Luigi Ciotti, che con la sua Libera nel 96 è riuscito ad ottenere l'uso sociale delle ricchezze tolte ai boss. Un migliaio e più di aziende sono perse per strada, oltre 4.200 persone che lavoravano in queste aziende, non si è trovato delle soluzioni efficaci, efficienti, e quindi sulle confische delle aziende ci sono delle grandi ombre, bisogna fare molto di più, fare anche molto in fretta per non perdere questo patrimonio. Le aziende confiscate devono essere messe in grado di trovare chi le può portare avanti perché non si perda quei posti di lavoro. Ecco, voi avete siglato una serie di accordi anche con Unioncamere proprio per formare anche i manager che dovrebbero occuparsi di queste aziende confiscate. Perché è importante prendere coscienza, fare conoscere, ma stiamo studiando proprio in questi giorni per fare una grande proposta, perché la politica se ne faccia carico, chi governa se ne faccia carico, e quindi c'è una squadra che sta lavorando. Ma una cosa la prometto: quando tutto questo viene elaborato, con Radio 24 noi saremo in prima fila. E noi, Radio 24, saremo al loro fianco. In questi anni qualcosa già si è mosso, gli accordi tra Libera e Unioncamere, ad esempio, l'iniziativa di Assolombarda di formare manager ad hoc. Ma ora serve un netto cambio di rotta, anche perché le imprese, come più degli altri beni immobili confiscati, costituiscono un tesoretto che è una grande potenziale risorsa per i bilanci dello Stato, come lo stesso direttore dell'Agenzia Nazionale scrive in un suo documento che abbiamo consultato. Le aziende però, a differenza di case e terreni, già possono essere vendute, e d'altra parte questa è un'ipotesi che lo stesso direttore dell'agenzia, Giuseppe Caruso, suggerisce come strada per fare cassa, come scrive lui stesso e come fa trasparire in questa intervista con Radio 24, fatta però per iscritto. Per questo le sue parole, che ritroveremo anche più avanti, sono state lette da uno speaker. Capitolo specifico sono le aziende confiscate. Sono stati siglati più accordi regionali per formare i manager che devono occuparsene. Ma le aziende, secondo lei, possono essere messe sul mercato? La prassi ci insegna che per poter collocare un'azienda confiscata sul mercato occorre effettuare una delicata valutazione aziendale, volta a verificare l'esistenza di fondati e oggettivi elementi di rilancio dell'impresa. Qualora manchino tali elementi, è inutile mantenere sul mercato un'azienda non concorrenziale. Altererebbe le regole del mercato a scapito delle aziende sane. Sarebbe invece auspicabile avere degli strumenti legislativi di welfare che consentano di tutelare i dipendenti dell'azienda mafiosa da liquidare. Cassa integrazione in deroga, contratti di solidarietà, sistemi di riqualificazione del personale per ricollocarlo su mercati diversi, eccetera. E che pensa dell'ipotesi di vendere i beni confiscati? L'idea, ormai condivisa da diversi esperti del settore, compresi molti magistrati, è che la gestione efficiente ed efficace dei beni debba passare, in alcuni casi, per la via della vendita. Mi riferisco in particolare a tutti quei casi in cui il bene risulta di fatto indestinabile allo Stato, o agli enti territoriali. Si pensi ai beni confiscati in quota indivisa per i quali spesso l'unica destinazione possibile è quella della vendita ai privati. Di conseguenza, proprio per risolvere questi casi, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore che consenta all'Agenzia Nazionale di alienare i beni immobili ai privati, ovviamente dando priorità alla destinazione allo Stato e agli enti territoriali. L'agenzia calcola in 385 milioni di euro il valore stimato per difetto dei 2.157 immobili dei 3.470 attualmente in gestione all'agenzia stessa, e rispetto alla cifra d'insieme quasi la metà dei beni, il 43%, sono sottoposti ad ipoteche, altra dolorosa spina, perché è tra le principali cause che bloccano i beni per anni, come riconosce lo stesso direttore Caruso con Radio 24. Oggi il codice antimafia attribuisce all'Agenzia Nazionale importanti competenze già nella fase del sequestro. Tale regime consente all'Agenzia Nazionale di monitorare il processo di gestione e destinazione dei beni già nel momento più difficile, ovvero quello del sequestro, e quindi di intervenire da subito per garantire un'efficiente amministrazione. Per quanto riguarda i beni oggetto di gravami ipotecari, in questo momento l'Agenzia Nazionale gestisce 3.470 immobili, di cui 1.570 interessati da questa criticità. Per risolvere tale criticità sarebbe necessario, da un lato, intervenire sui beni in gestione, per consentire all'Agenzia Nazionale di avviare delle transazioni con i singoli istituti bancari, senza avviare la procedura giudiziale per l'accertamento della buona fede che, come noto, comporta dilazione delle tempistiche. Dall'altro lato, modificare la disciplina del codice antimafia in materia di tutela dei terzi, prevedendo l'istituzione di un fondo di rotazione che consenta di estinguere i crediti vantati dai terzi in luogo della prevista vendita dei beni. 12 associazioni chiedono al ministro dell'Interno una cabina di regia presso l'Agenzia dei Beni Confiscati per individuare problemi e indicare linee guida per l'uso di beni e aziende confiscate. È d'accordo? Perché servirebbe, secondo lei? Di recente l'Agenzia Nazionale ha partecipato alla presenza del ministro Cancellieri a una riunione specifica su tale argomento. In questo contesto è stato rappresentato che il coinvolgimento dei vari soggetti firmatari potrebbe avvenire su due livelli: a livello centrale, tramite la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con ciascuna istituzione o associazione nel quale individuare i principi e i criteri direttivi da seguire, e a livello periferico tramite il coinvolgimento della singola istituzione-associazione, attuando così le linee guida dettagliate nel siglato protocollo d'intesa. I soldi liquidi e poi ancora gli oggetti, conti correnti o ancora i gioielli confiscati ai boss, come vengono utilizzati? Attualmente l'Agenzia Nazionale gestisce soltanto quella parte di beni mobili confiscati in via definitiva. A seconda dei casi possono essere assegnati alle forze dell'ordine, autovetture, oppure venduti, nel caso di gioielli, quadri, mobilio, eccetera. Per quanto riguarda i conti correnti, l'attuale normativa affida la gestione dei conti correnti, diversi da quelli intestati a società, al Fondo Unico Giustizia, che provvede all'amministrazione degli stessi in forma accentrata già dalla fase del sequestro. La richiesta di una cabina di regia con organizzazioni sociali e antimafia è partita da 12 associazioni e porterà ad un incontro al Ministero dell'Interno. L'obiettivo? Valorizzare e mettere a frutto, non solo custodire i beni mafiosi, proprio per trasformare ancora di più quelli che erano possedimenti dei boss in risorse dello Stato. L'abbiamo voluto, l'abbiamo sollecitata. Quali sono i punti lacunosi? A che cosa servirebbe questa cabina di regia? Serve soprattutto che si ascolti la voce di chi opera sul territorio. Libera ne ha messi insieme 1.600 associazioni. C'è un aspetto importante che l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, che il governo passato ha voluto, e noi fortemente abbiamo anche sollecitato nell'arco di questi anni. Ecco, ma funziona o rischia di essere soltanto una scatola vuota? Bisogna metterli in grado di poter funzionare. Si sono aperte tante sedi, alcune le ritengo inutili, ci vuole una buona cabina di regia centrale, quindi ci vogliono strumenti e i mezzi per fare questo e fare meglio. E devo dire che siamo alla vigilia dell'arrivo di tanti altri beni confiscati, creare le condizioni perché la confisca sia più veloce, più efficace, più efficiente, e soprattutto creare le condizioni che questi beni possano essere veramente recuperati. Le cooperative devono diventare di tutto. Non ci può essere un fondo di rotazione che gli può permettere di avere subito un accesso per poter avere gli strumenti per renderlo operative. Ecco, tante cose che possono essere fatte con un po' più di grinta da parte di tutti. Per essere nelle condizioni di poter davvero funzionare l'agenzia, però, ha bisogno di adeguati mezzi e persone. E proprio mentre molti altri beni stanno per esserle assegnati, il direttore denuncia l'assoluta inadeguatezza delle risorse. Abbiamo descritto, tra gli altri, gli aspetti organizzativi e strutturali, segnalando l'assoluta inadeguatezza dell'organico di 30 unità di personale, compresi i dirigenti, a fronte dei molteplici compiti che per legge devono essere svolti. Sulla base delle ultime stime dell'agenzia, abbiamo segnalato che soltanto per le funzioni di staff, l'agenzia necessiterebbe per la gestione ordinaria delle attuali 5 sedi operanti sul territorio nazionale di 38 unità di personale. A questi vanno aggiunti i tecnici che dovrebbero occuparsi della parte operativa, ossia della gestione dei beni sequestrati e confiscati. Sul punto abbiamo segnalato che l'agenzia nazionale ha bisogno di almeno 100 unità, con la precisazione che l'ampliamento della pianta organica deve essere necessariamente accompagnato dalla trasformazione dell'Agenzia Nazionale in ente pubblico economico, che consentirebbe di assumere personale qualificato da dedicare in via esclusiva alla gestione operativa. Ci sono stati negli ultimi anni molti cambiamenti nella gestione dei beni confiscati, dal commissario straordinario al demanio fino all'Agenzia Nazionale, ma tutto questo non ha significato perdita di tempo e spreco di competenze? I continui cambiamenti in questi anni, necessitati dall'evoluzione della normativa antimafia, hanno consentito di individuare un unico soggetto, l'Agenzia Nazionale, quale attore principale nel processo di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, garantendo così un maggior grado di efficienza e razionalizzazione dell'intero processo gestionale. Il problema che si pone oggi, quindi, non è chi gestisce, bensì di potenziare l'ente gestore in modo da consentirgli di realizzare concretamente gli obiettivi previsti in via astratta dal legislatore. Da una parte, dunque, non lasciare deperire beni faticosamente sottratti ai boss, dall'altra, però, proteggerli dalle fiamme come dai vandalismi degli stessi picciotti che preferiscono distruggere ciò che loro non possono più avere. E negli ultimi mesi, con una sistematicità mai avvenuta prima, decine di campi confiscati e lavorati sono stati incendiati dalla Sicilia alla Puglia, forse per un particolare tributo ricevuto dal Quirinale. E da qui ripartiamo nella seconda parte di A ciascuno il suo, ma ritorniamo anche alle origini di questa legge con l'unico firmatario ancora in vita. A ciascuno il suo. Venti ettari bruciati a Castelvetrano, patria di Matteo Messina Denaro, aranceti devastati alle pendici dell'Etna tra Paternò e Belpasso, poi ancora fiamme a Mesagne in Puglia e a Borgo Salentino in provincia di Latina, e ancora incendi a Castelvetrano e a Partanna, dove sono andati distrutti altri terreni lavorati dalle cooperative di Libra, che trasformano in grano, succo d'arancia, vino e olio campi che andavano un tempo ad arricchire sanguinosi clan. Mai come in questi mesi i beni confiscati hanno subito un attacco così sistematico e prolungato, organizzato forse, innescato probabilmente come vendetta ad un grande tributo simbolico arrivato ai prodotti di Libera dall'espressione più alta dello Stato, il Quirinale. Don Luigi Ciotti non vuole sbilanciarsi, ma queste fiamme lo preoccupano e non poco. Era già successo in passato, in modo più sporadico. Quest'anno è venuto un fatto molto importante di grande valore, che nel momento della festa della Repubblica, il Presidente della Repubblica ha fatto una scelta molto bella, molto importante e molto positiva. Ha voluto che ci fossero solo i prodotti di Libera. Un grande segno è stato questo. E quindi quelle mozzarelle, l'uso di quell'olio, di quei vini. Questo è venuto il 1 giugno, la vigilia, nei giardini del Quirinale. L'indomani sono cominciati i primi grandi incendi, ed era mai successo poi in una continuità impressionante, campi di grano, di orzo, di ulivi, di aranceti, ettari bruciati, e che vuol dire per le cooperative meno olio, vuol dire meno prodotti. Però dall'altra parte oltre 6.000 giovani hanno risposto scegliendo di trascorrere in tutta Italia, sui tanti beni confiscati, dove ci sono le cooperative, parte delle loro vacanze per dare una mano. Quindi questi incendi potrebbero essere stati in modo così sistematico la risposta, esatto, all'attenzione, al tributo che dallo Stato nella sua forma più alta, quindi dal capo dello Stato, è stato dato con la presenza dei prodotti di Libera al Quirinale.